ma qual opra turbi? Anzi, più grave vengo a renderla giù. Una virre con vittima involontaria ed innocente, che ha valor, che ha desio di morir per quel reo. Qual è? Solino, oh bella fede, oh rossor. Dovresti saper che al debil sesso del più forte morir non è permesso. Ma il morir non si vieta per lo sposo una sposa. Che perciò sei tu forse di rigida consorte. E me ne chiedi, vegno la sua destra e la sua fede. Licori, io che t'ascolto, son più folle di te. Regio erede, una vil pastorella dunque. Né dir son io, né son Liconi. Virginio nome, increda chiara, e del sangue mio la gloria antica. E se giuro mi fe, licida il dica. Licida, parla. L'esser menzognero questa volta pietà. Oh! Non è vero, come? Negarlo vuoi? Volgi di ingrato, conosci i tuoi doni se appena vuoi. Laureo monile questo, e nel punto funesto di giurarmi tua sposa e fida a te. Se venga almeno che di tua mano me ne adornasti il seno, purtroppo è vero. Guardalo, re. Dianzi mi si tolga costei. Popoli, amici, sacri ministri, principessa, vieni, soccorrimi.